celeste, inico stelle, ecco soggiace di Cesare all'arbitrio il mondo intero, misera libertà, patria infelice. Ma non potrai tiranno trionfar di Catone, e se non dice viver libero ancor, si vegga almeno nella fatal ruina spirar con me la libertà latina. Padre, sicur, torresmo! Salvardo mio, ardisci ancor di presentarti ingrata. Una misera figlia lasciar potresti in servitù si dura. A quest'indegna oscura la gloria mia. Che crudeltà! Ascolta i prieghi miei. Facci! Perdono, padre, caro padre pietà, questa che bagna di nobile il tuo piede. Eppure, tua figlia, avvolgeme le ciglia, vedi almeno la mia pena. Guardami una sola volta e poi mi svela. Facci indegna, conosco l'animo avverso. Da costei lontano volo a morir. Son io per te solo infelice, anima rea. Questo scorno da te non attendea.